19. In mezzo a un'immensa distesa di sterpaglie, il vecchio edificio dell'ente spettacolo era una nave affondata nell'oblio. Erbe rampicanti avevano invaso le finestre e sui muri scrostati ancora si intravedevano gli affreschi della rivolta dei suggeritori e la fucilazione dei presentatori doppiogiochisti. I fiori, che una volta ornavano il viale d'ingresso, avevano resistito al tempo. E così spuntavano gardenie tra mucchi di ghiaia, tulipani tra i laterizi, bougainville su macerie scheletriche, petunie da travi crollate. Era come se la mano pietosa della vedovanza botanica avesse deposto il suo omaggio in quel cimitero abbandonato. Entrammo da una porta sfondata e percorremmo un lungo corridoio pieno di statue. Erano i VID, ovvero i VIP dimenticati, quelli che il regime aveva sostituito con nuovi idoli. Sui piedistalli, una mano impietosa aveva tracciato mesti epitaffi. Ci soffermammo su alcuni. Roberto De Pasquale era il più sciocco, banale e demenziale, ma uno assai più sciocco di lui apparve, che di colpo lo fece apparire normale. Così tramontò Roberto De Pasquale. Aldo Vernacolone divenne famoso per una canzone in cui cantava «Che bella che sei», per un totale di volte 86. Ma poi venne Alfio Vernagiotto, che cantò «Che bella che otto», per volte 178, e per le ferre leggi del mercato, Vernacolone finì dimenticato. Nico Chiambrone inventò una nuova formula di teletrasgressione, entrando nella cucina dell'onorevole mentre faceva colazione, ma subito appresso, Nico Cipresso, con la telecamera riuscì a entrare nel cesso e Nico Chiambrone ci restò come un fesso. Chissà cosa farà adesso. Johnny Hall amava il sesso, la coca e lo speedball. Era una belva del rock and roll. Poi venne Johnny Balena, che vomitava in scena. Poi venne Joe Baleti, che ingoiava criceti. Poi venne Johnny Barilli, che si trafiggeva con gli spilli. Poi venne Joe Ballina, che beveva varichina. Poi venne il regime, che a tutto mise fine. Poi venne Johnny Belle Bambine, che cantava il rock delle paperine, con un costumino di trine. Era sempre Johnny Hall, che per mangiare si era scelto un genere più popolare. Però, che brutta fine. Francesca Natale aveva la bocca più grande e sensuale, e quando diceva ciao sul canale nazionale, ogni uomo trasformava in maiale e ognuno sarebbe annegato in quel lago di rossetto contornato. Ma dopo 2 settimane apparve Francesca delle Piane, che aveva la bocca come un pesce-cane, 7 volte una bocca normale. E Francesca Natale fu cacciata dalla TV nazionale. State pur certi che è finita male. Arrigo Barchina era il maestro della velina. Con la sua voce di vaselina incantava il farmacista e la maestrina. Ma venne Giorgio Galeone, il maestro del velone. Quando leggeva del gerarca le gesta, fuoco e fiamme gli uscivano dalla testa. E spaventoso era il suo vocione. Il povero Barchina sembrò una beghina. Fu cacciato dalla sera alla mattina. Ora solo e malato su una panchina legge le istruzioni della coramina. Attilio De Mori era il re dei presentatori. Quando diceva signore e signori, tutti si sentivano davvero signori, nei più poveri ostelli, nei miseri tuguri. Ma un giorno si svegliò e per caso gli era cresciuto un brufolo sul naso e non ci fu né luce né cerone che poté nascondere l'imperfezione. Così fu cacciato dalla televisione. Ora, col naso finto e il viso dipinto, fa il pagliaccio in un circo da poche lire. È felice, ma non si deve dire. Dopo la sala dei VID, i corridoi si ristringevano e avanzammo a fatica tra migliaia di metri di pellicola che si avviluppavano ovunque, come un roveto mostruoso. C'erano cataste di televisioni sequestrate dai tempi in cui fu dichiarato fuori legge ogni televisore con più di 3 anni di vita. C'erano costumi di scena marciti. Topi scorrazzavano qua e là, brillanti dei lustrini in cui si rotolavano. Topi rossi, topi dorati, topi arcobaleno, topazzi. Da una finestra ci calammo in un cortile interno. Il paesaggio cambiò. Tutto era bianco e polveroso, come su una base lunare. Una serie di edifici piramidali con un numero luminoso brillavano nella notte. Andavano dal 12 all'1, i magazzini della realtà primaria. Davanti a questi magazzini c'era un grande movimento. Essendo infatti il loro contenuto importantissimo e segreto, erano sorvegliati da uno speciale e modernissimo esercito. ma quello che si presentava ai nostri occhi, più che un esercito in funzione, sembrava un balletto o l'ora d'aria di un manicomio. Gente vestita in modo strano andava e veniva senza un motivo preciso, reggendo oggetti o spostandoli e salutandosi in modo bizzarro. Di tanto in tanto qualcuno lanciava un urlo o un rimprovero, senza avere nessuno di fronte. C'era chi abbozzava a strani passi di marcia, chi correva in circolo, chi sparava in aria. Precedendo la nostra domanda, René La Mucca ci spiegò: «Questo che vedete è un moderno esercito segreto, secondo le più recenti teorie di criptostrategia della simulazione e guerra psicologica. Ciò che è contenuto nei magazzini è così segreto che non può essere protetto con i normali apparati difensivi. Se i nemici o i ribelli vedessero davanti ai magazzini elicotteri, carri armati o soldati in assetto di guerra, capirebbero subito la segretezza di questo luogo. Inoltre, ci sono qui cose così segrete che non a tutti i militari è permesso conoscerle e quindi alcuni non conoscono i segreti e si comportano di conseguenza. Altri conoscono i segreti ma non possono mostrare di conoscerli in quanto rivelerebbero il loro ruolo segreto di conoscitori di segreti. Altro particolare. Essendo i segreti così segreti, la punizione in caso di errore è severissima. Solo stando lontano dai segreti si potrà dire io non c'ero dentro, non ero di turno. Quindi, nonostante ci sia l'obbligo di sorvegliare strettamente i segreti, tutti cercano in pari tempo di non trovarsi vicino ai segreti, cosa resa possibile dal fatto che coloro che sorvegliano, che si sorveglino i segreti, sono spesso altrove, in quanto non vogliono trovarsi vicino ai segreti, in modo da poter dire che non erano loro a sorvegliare i sorveglianti dei segreti, qualora si verificassero violazioni dei segreti. Capisco che tutto ciò non è facile da spiegare, ma l'effetto è sotto ai vostri occhi. Altra difficoltà. Secondo la nuova circolare di segretezza, nessuno deve essere vestito da militare, tranne i corpi speciali da parata. Tutti sono vestiti da civili, ma non troppo, in quanto devono essere riconoscibili i gradi. Allora, i soldati semplici hanno i jeans, i sergenti una giacca a quadri gialli, i capitani una tuta da footing con 3 stelle sul dorso, i maggiori stivali camper rossi storiati, i colonnelli sono riconoscibili dal numero dei bottoni sul doppio petto, 16, mentre i generali, dovendo essere i più segreti, sono vestiti da soldati semplici, ma hanno la sciabola. Altro particolare, le armi. Tutti le tengono nascoste o dissimulate. Potete vederle spuntare da giacche e tasche, fucili travestiti da ombrelli, proiettili portati come orecchini. Ci sono dei carri armati schierati, ma col cartellino del prezzo, in modo da sembrare lì solo per essere venduti. E vedete là, un elicottero senza elica, in modo che il nemico diventi matto a chiedersi come possa decollare. Non può, questo è il segreto. Inoltre, in un moderno esercito segreto, tutti devono fare qualcosa, ma nessuno deve fare qualcosa di preciso che sveli le sue mansioni. Bisogna quindi essere militarmente svagati, vigilare distrattamente ed essere combattivamente assenti. Ecco i soldati andare qua e là, spostando casse, cassette, bombe, scope, lavandini. Ognuno, passando davanti a un superiore, ha l'obbligo, facoltativamente imperativo, di salutarlo in modo segreto per non tradirlo. Alcuni fanno gesti strani con le mani, altri tirano fuori la lingua, altri hanno imparato a muovere le orecchie. I caporali sorvegliano che nessuno marci, poiché niente più di una marcia rivelerebbe il numero, l'inquadramento e le mansioni di un plotone. I soldati devono quindi rigorosamente non marciare, guai a ritmare più di 3 passi. Il caporale deve guidare la loro non marcia senza guardarli. Il sergente deve ispezionare la pulizia delle latrine, ma essendo le latrine anch'esse segrete è vietato usarle. Per questo il sergente ogni tanto si arrabbia e fa un cazziatone, come potete vedere in questo momento, a nessuno. Quelli che stanno sempre immobili sono i capitani, i quali devono assicurarsi che le sentinelle siano al loro posto. Ma per ovvi motivi di segretezza non ci sono sentinelle. I capitani passano il loro tempo leggendo fumetti sadomaso con grande disorientamento del nemico. I colonnelli avrebbero il compito di intrattenersi democraticamente con la truppa, ma se lo facessero rivelerebbero il loro grado. Sono quindi condannati a girovagare per chilometri senza poter parlare con nessuno. Per ultimo, ecco il generale che ispeziona la caserma. È quell'ometto che scopa le cartacce e che tutti salutano portandosi 2 mani alla testa o facendogli un pernacchio, un misto di deferenza e di disprezzo, che confonde abilmente le idee del nemico. Tutto questo può sembrare folle, inutile e dispendioso, ma un vero esercito moderno, segreto e aperto ai problemi del paese non può comportarsi diversamente. Non dubitate, se ci sarà da uccidere, si tornerà ai vecchi metodi. Voi sapete bene cosa succede a chi cade nelle loro mani. Ma niente paura, concluse il re nella mucca, guardandomi negli occhi. Questi segreti sono nulla rispetto a quelli che alcuni di noi custodiscono nel cuore, poiché, come dice il Baolian, il vero segreto è il respiro quando dormi. Non ti facevo così colto, René, disse un po' inquieto. Voi Baol sottovalutate sempre tutti. Ogni lottatore di catch, prima di essere ammesso a combattere, deve studiare semiotica dell'aggressività, teatro giapponese e mind building. Basta chiacchiere, intervenne Alice. Adesso tu, Baol, devi dirci come faremo a passare. Non sarà difficile, risposi. Tu, Alice, vai davanti col microcomputer o bene in vista. Noi due seguiremo cantando a media luz. Io ogni tanto mi fermerò per comunicare a qualcuno la seguente parola d'ordine. E sotto l'albero dell'albicocca sta Ludovico con un tappo in bocca, così l'orecchio del vil nemico nulla saprà da Ludovico. Fu così. La somma di questi spettacolari effetti indusse tutti a pensare a una missione di segretezza inimmaginabile e i militari si fecero da parte, perché se la missione era vera non volevano o potevano mettere il naso in un segreto così segreto. Se d'altra parte era falsa, non volevano essere coinvolti nella possibile inchiesta segreta che ne sarebbe inevitabilmente conseguita. Senza alcun problema, giungemmo così fino all'ultimo magazzino, sovrastato da una montagna di immondizia coperta di gabbiani. Alice conosceva bene i codici di avvicinamento. Il primo era il verso dell'aquila Aldamara, un'aquila così rara da essere estinta, che si cibava esclusivamente di gabbiani e il cui urlo terribile risuonava nell'inconscio collettivo mitologico del gabbiano, riempiendolo di terrore. Il verso era più o meno questo. Udendolo, i gabbiani si levarono in volo come un solo uomo. Questa frase è tipica della lingua Baol. Individuammo così nel mucchio di immondizie una porticina segreta. Alice la aprì con il codice acustico del microcomputer. Entrammo. Mentre la porta si richiudeva, alle nostre spalle, in un aroma di uovo marcio e pattumaglia, udì nel cielo la voce armoniosa del maestro che diceva: «Ora conoscerai il tuo segreto, Bedrosian Baol!» Seguirono 8 battute di «Notte sul Monte Calvo» di Mussorgsky. Al maestro piacevano questi effettacci.